Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Domani alle ore 20:30, Arena del Sole, sala Leo De Berardinis, Luca Telese con la scorta di Enrico quando i supereroi lavoravano per il PC. Ripercorso di vita della drammatica morte del leader del PC, la figura politica tra le più amate e rimpiante d'Italia, Enrico Berlinguer, lasciando emergere la storia di un popolo, quello della sinistra, e in un certo senso anche la storia stessa del paese. È il giornalista e conduttore televisivo Luca Telese che dà voce agli uomini che hanno accompagnato Berlinguer nella vita e nella sua missione. Accanto a loro i fatti, i testimoni, i documenti, alcuni momenti preziosi che sono legati alla dimensione privata del leader. E in tanti momenti storici di cui parleremo con Luca Telese, che ho contattato per darne anticipazione in questo Last Minute, e quindi direi con l'inizio nell'ascoltare questo dialogo. Sentiamo le parole di Luca Telese. È stato emozionante, in qualche modo abbiamo avuto dei bellissimi giorni nei teatri, perché la memoria in questo momento sembra più vicina di prima. I 40 anni dalla morte di Berlinguer sembrano meno distanti dei 20 o dei 30, perché si sono riprodotte più o meno le stesse condizioni della sua ultima battaglia. Quindi nell'84 c'era guerra, inflazione, crisi economica, rischio escalation, e oggi c'è guerra, inflazione, crisi economica, rischio escalation. E la domanda di Berlinguer nell'84 era: chi deve pagare il prezzo di questa crisi? Non i più poveri, non gli ultimi. E questa risposta purtroppo è ancora molto attuale, perché stanno pagando i più poveri e gli ultimi. In questo contesto, che tra l'altro ha un'attinenza con il presente assolutamente parallelo, ci sono diverse voci, anche voci vicino a Berlinguer, e nella descrizione ho trovato anche motivo di ironia, autoironia, insomma si sorride anche. Beh sì, si sorride, ci si commuove, spero, perché la storia di Berlinguer e della sua scorta, io ho usato le memorie di queste persone che sono state giorno e notte con lui per 14 anni, 6 di loro sono scomparsi, 2 erano dei partigiani, gli ultimi 2 li vedrete in via eccezionale sul palco dell'Arena del Sole, uno è un modenese che si chiama Otto Grassi e l'altro è un romano, si chiamano Roberto Bertucci, e gli ho dedicato uno spazio in cui loro raccontano se stessi e Berlinguer durante questo monologo a tre voci. Quindi l'importanza del percorso, sì, non mancherà la nostalgia, ma anche molto presente in tutto ciò. Ma infatti la nostalgia è il sentimento di rimpianto per qualcosa che è perso per sempre, invece proprio questo ricorso storico fa sì che la memoria di quel tempo e soprattutto le riflessioni, i pensieri lunghi, come li chiamava lui, di Enrico Berlinguer, non sono nostalgia, sono una lezione utile. L'ultimo Berlinguer si appassiona alle donne, alla questione di genere, e pensate quanto è importante oggi. L'ultimo Berlinguer si appassiona alla pace, si appassiona al tema di come si impedisce l'esplosione del riarmo, si appassiona alla lotta all'antimafia, viene votata la prima legge sul sequestro dei beni mafiosi ed è la legge La Torre, bisognerebbe ricordarlo, quindi il più stretto collaboratore di Berlinguer. Cioè ci sono una serie di temi che allora erano importantissimi e oggi sono i temi su cui discutiamo in queste ore. C'era la guerra in Israele col massacro di Sabra Shatila nell'82, c'è la guerra in Israele oggi, Israele e Palestina. Quindi raccontare di allora non è come aprire l'album dei ricordi. Berlinguer ha due bussole in quella notte in cui finiscono i blocchi. Capisce che è finita l'Unione Sovietica, lo capisce proprio al funerale di Andropov a Mosca, proprio nell'84, e capisce che ci sono due luci che ti possono guidare nella navigazione. Uno è la questione morale e l'altra è la questione sociale. Tra l'altro c'era un referendum, quello che Berlinguer voleva fare, non si era mobile, e c'è oggi un referendum, quello sempre sulla questione sociale, che Landini sta promuovendo per impedire i licenziamenti legittimi e subappalti che tanti morti hanno prodotto nel mercato del lavoro. Quindi io credo che tutto questo sia un po' il racconto che facciamo. La cosa bella è che c'è un dilemma, si discute, hanno ragione il popolo o hanno ragione le elite, e lì il popolo e l'elite viaggiavano nella stessa macchina. I compagni della scorta di Berlinguer erano tutti fabbri, operai, metalmeccanici, e lui era il figlio della grande borghesia sassarese che fa la scelta di vita. Quindi si deve stare da una parte, se si sta da una parte si difendono le persone che hai scelto di difendere. Ecco, questo è un messaggio molto importante anche per tanti che oggi magari non vorrebbero dare battaglia o dicono ma se si dà battaglia magari si perde. Ecco, questa domanda per l'inverno non se la fa. Allora chiudo io con una domanda che dà continuità a questa riflessione. Perché mancano dei leader con questo carisma e questa proposta di intensità? Guarda, proprio l'11, lo stesso giorno in cui noi andiamo all'Arena, si inaugura a Bologna la mostra che è stata a Roma su Berlinguer. Una mostra è stata prorogata di 15 giorni perché c'era la fila fuori, tutti giovanissimi. Allora, la prima cosa è che non si può raccontare Berlinguer senza raccontare questo suo legame con il popolo, con il suo popolo. Vedrete, chi verrà vedrà che storie che troviamo raccontando le famiglie. I due più anziani della scorta erano partigiani, uno aveva combattuto a Firenze con Pertini, Dante, l'altro Lauro era andato a inseguire a 16 anni a piedi, camminando a piedi per 40 chilometri dalla Repubblica di Montefiorino. Cioè, quindi se hai delle radici sai da che parte stare e non hai il dubbio. Invece in questi anni ovviamente molti si sono distaccati dalle radici, molti hanno pensato che il governo non fosse solo un mezzo ma fosse il fine. Quindi la risposta di popolo delle primarie che ha portato agli Schlein è stata proprio l'indicazione di questo grande enorme popolo della sinistra di ritornare ad aderire alle cose. Cioè, non puoi ignorare il fatto che il potere di acquisto delle famiglie in Italia è calato del 17%, non può ignorare che siamo il paese d'Europa dove c'è stato il più basso incremento dei salari e dove siamo gli ultimi in assoluto. Mettici chiunque l'Europa degli stati membri, noi siamo il paese dove le persone guadagnano meno e dove hanno perso più potere di acquisto. Allora la domanda che Berlinguer si fa nel 84, chi paga? E soprattutto come si fa a assistere chi ha già pagato? Questa è una domanda attualissima. Ma se tu non vivi in una comunione, no? In quella mostra ogni foto di Berlinguer sembra che sia uno scherzo, non c'è il Chelsea autoreferenziale, ci sono dietro un milione di persone, ci sono cucitrici, ricamatrici, operai, è veramente una foto di gruppo di un enorme collettivo. E allora o respiri questa capacità di connettere con gli strumenti del tuo tempo, con l'analisi del tuo tempo, però con una ragione sociale, oppure non sei la sinistra, magari sei un ottimo liberale che può gestire un problema di autori, di norme, ma non riesci a stare in connessione con il pezzo del paese che soffre. Quindi è domani alle 20.30, Arena del Sole, Sala de Berardinis, la scelta di Enrico, quando i supereroi lavoravano per il PC di e con Luca Telese. Ho detto di collaborazioni, testi di Telese con Franco Freire, Marco e Michela Gallio, Andrea Zalone con Luca Telese. E non solo, è una produzione tratta dal saggio omonimo del titolo liberamente tratto dal bestseller La scorta di Enrico Solferino, editore, è uscito nel 2022. Grazie per l'ascolto, per l'attenzione. Domani alle ore 7 riprendiamo la prima colazione in diretta presentando l'appuntamento del Comini Express estate. Poi andremo con il Multigroup nell'imprevedibile martedì di Radio Città Fujiko. Il buon ascolto procede con il Edipeo enciclopedico e Liberi Dentro, dopodiché la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. A tutte le mattiniere e i mattinieri dei 103.1 dal vostro William Piana un caro saluto e ricordo l'appuntamento a domani alle ore 7 sui 103.1. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.